Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Cambia disco per Pianti. Se tu quest'anno mi prendi tutti 10, ti regalo una vacanza da sogno. Dove lo porti che non c'è una lira? Scusi, se un papà porta qui il bambino in vacanza. È un coglione. Grazie. Perché non li fermati qui? No, non posso accettare. Gratis. Sì. Accetto. Philip, Pino, mi portate un cocktail per cortesia? Che senso avrà questo sole al tramonto se torno a casa e non trovo pronto? Figlio mio, vedi questo lusso, questo yacht? Non voglio che pensi che questa è la felicità. Perché guarda lì, Nicolò. Quella è la felicità, papà. Nostra caca. Buongiorno, Sole a Catinelle, che è il nuovo film di Checco Zalone. Ha incassato fino ad oggi, due weekend praticamente, ormai 21 milioni e 770 mila euro. Un successo, un grande successo del cinema italiano, ma anche un fenomeno di costume che va capito, perché è un successo che in qualche modo si è scontrato anche con una critica che invece l'ha capito molto meno. Pietro Valsecchi, che è il produttore di Sole a Catinelle, ecco, questi incassi in qualche modo riaccendono la speranza del cinema, intanto complimenti. Grazie, grazie a tutti, beh io me lo auguro per tanta ragione. Intanto questo film ha fatto sì 21 milioni e 7 in 5 giorni, è un record storico. Se tu pensi che in America un film che fa 27 milioni di dollari, 28 milioni di dollari in un weekend, è un successo clamoroso, ma sto parlando di film da 200-300 milioni. 300 milioni di pubblico potenziale, insomma. Sì, sì, ma proprio di costo anche, sì, del film, sì. Capisci bene che qui, certo, la proporzione in Italia, infatti in America stanno parlando di Sole a Catinelle, di un grandissimo fenomeno. Beh. E c'è una checcomania, tutti quanti amano Checco, è chiaro che una rondine probabilmente non fa primavera, però... Però intanto l'annuncia la primavera, la rondine, come minimo. Sì, sì, sì. Diciamo che è stata una primavera per gli esercenti. Tu sai che gli esercenti sono, quest'anno hanno passato una bruttissima annata, perché i film naturalmente non hanno incassato soldi, e molti esercenti mi hanno chiamato dicendomi: stavamo portando i libri in tribunale per chiudere l'esercizio e tu invece ce l'hai fatto riaprire per un altro anno. Ecco, beh, insomma, questo è un grande risultato da tutti i punti di vista. Ecco, dici che il Sole a Catinelle ha successo, hai detto in qualche intervista, anche perché ci vuole il rispetto per il pubblico. Ecco, esattamente cosa intendi per rispetto per il pubblico? Beh, perché noi cerchiamo di lavorare, cerchiamo fondamentalmente di non fare mai un film furbo, ma lavorare sulle emozioni. Noi cerchiamo di vendere emozioni e contenuti. Beh, è stato 2 anni di lavoro. Checco non è un furbo, Checco non voleva neanche uscire quest'anno, aveva una paura che lo portava via. Vabbè, dopo i successi che aveva avuto, è normale. Facciamo con 45 milioni, usciamo, la gente ci ride appresso, facciamo 20 milioni, Pietro. Io non me la sento di uscire il 31 ottobre. E abbiamo litigato a morte, ho dovuto stare in Puglia a vedere il film con lui e dirgli che il film era fantastico e gasarlo proprio su questo percorso insieme a Gianni Annunziante. E alla fine l'abbiamo quindi coinvolto in questo 31. Ecco, ma rispetto per il pubblico esattamente che cosa vuol dire? Bisogna capire il pubblico. Tu devi fare un film convinto, onesto, che stai facendo la cosa giusta, onesto, poi puoi anche sbagliarlo, ce l'hai messa tutto. Non fai un film furbo, fai un film perché comunque hai fatto 50 milioni. Ecco, sarebbe stato un errore enorme. Ecco, sembra che voi avete imboccato in qualche modo una linea di ricerca di film popolari con artisti anche nuovi, perché mi sembra che state lavorando in questa direzione. Che tipo di lavoro c'è dietro? Beh, c'è un lavoro di grandissimo scouting. Il problema, ecco, è lavorare sempre con i giovani, perché il problema è che questo cinema va rinnovato, tu lo sai meglio di me, Giovanni, certo, ci vivi in questo ambiente. Allora, rinnovare cosa vuol dire? Rischiare sempre in prima persona e cercare sempre. Ma quando poi trovi un comico o una persona che ti fa sorridere o ti dà una grande emozione, ti dà un forte sentimento, è chiaro che naturalmente questa emozione tu la devi quindi cogliere e trasmettere e sentire i giovani, perché sono loro che vanno al cinema, sono loro che decidono che film fare o sentire. Questo Checco Zalone è mio figlio, è tuo papà, se fa un film con lui sbanchi. Certo. 3 anni fa. Eh beh, aveva capito. Ricordo a tutti che il nostro numero verde è 800 24 00 24 per chi vuole telefonare, oppure l'SMS 349 238 6666. Ti prego di restare con noi, che intanto vorrei chiedere una cosa buttafuoco. Tu sei stato presidente del Teatro Stabile di Catania. Ecco, secondo te abbiamo una fucina di attori che vengono usati poco nel cinema, nelle fiction, che invece potrebbero essere l'oggetto di questo scouting di cui parla Valsecchi molto giustamente. E infatti, buongiorno, infatti ci sono degli esempi a questo proposito. Nel film di Checco Zalone, uno dei pilastri del Teatro Stabile di Catania è Mimmo Mignemi, che interpreta il ruolo del suocero, per dire. Un altro esempio propositivo a questo favore, uno dei grandi successi della televisione italiana, i Montalbano, sono costruiti, oltre che con la grande scrittura di Andrea Camilleri, con la partecipazione del meglio degli attori, la maggior parte dei quali vengono dal Teatro Stabile di Catania. E quindi lì c'è da cercare, veramente. È un teatro vero. Non lo dico perché abbiamo fatto un'esperienza anche noi con Agrodolce, che ci ha portato a vedere quanta possibilità. Anche l'altro grande successo cinematografico, per esempio i Ficar e Picone, si appoggiano sempre ad attori veri. E la televisione spesso latita da questo punto di vista, perché lì prevale invece il gioco del cosiddetto casting per tramite di suggerimenti e clientele. Vabbè, e poi parleremo con Valsecchi di questo, che credo che sia uno che invece si muove su un'altra linea. Ecco, Mario Secchi, un successo, un altro grande successo che è partito da poco, dal piccolo, e che ha vinto anche in America, che è Gabriele Muccino. Sì. Quali sono le caratteristiche che ha maturato per arrivare lì? Beh, è molto interessante. Tra l'altro, Gabriele Muccino ha postato una cosa sulla sua pagina Facebook a proposito di Zalone. È molto interessante, perché è equilibrata e dipinge esattamente gli ingredienti che servono per avere successo nel cinema, riportando tutti sulla terra. Non è solo una questione di ispirazione, di arte, è un'industria, un'industria, un'industria e fatica, è marketing, è pubblicità, e sono i trailer, e sono gli spot, e sono il web. Certo, alla base di tutto ci deve essere un buon film, evidentemente. E Muccino, pur non dando un giudizio sul film di Checco Zalone, dice però una cosa vera, e cioè che farà bene al cinema, cioè che questo successo in termini di pubblico e quindi economici è un toccasana per i produttori, che forse così avranno anche soldi da investire in opere che guadagneranno meno, ma saranno utili dal punto di vista artistico. Ecco, Valsecchi, volevo chiederti, senti, l'osmosi tra cinema e fiction oramai mi sembra una cosa definitiva. Nella fiction, che è un media più popolare per eccellenza, perché è più difficile ottenere risultati? Solo per la ragione per cui diceva Buttafuoco che i cast sono fatti in un certo modo, oppure ci sono dei problemi anche diversi, io penso? No, guarda, Buttafuoco ha detto delle cose giuste, anche se ha parlato solo naturalmente di attori siciliani, e questo lo posso capire. Vabbè, il problema è invece... Partevamo di lì. Mimmo Mignemi è di Catania. Io adoro Catania e adoro la Sicilia, i miei film sono tutti fatti lì. Però detto questo, secondo me la televisione è molto più avanti del cinema. Un certo tipo di televisione. Anch'io lo penso. Perché dentro la televisione naturalmente non solo fai scouting, ma fai anche storia, fai anche lavoro tutti i giorni con gli sceneggiatori, perché sai, raccontare un film è un'ora e mezza, raccontare una serie sono magari 15 ore, 16 ore o 20 ore. Se molto poi fai una lunga serialità possono essere anche 16 anni di prodotto. Devi lanciare il sasso molto lontano e quindi far dei ragliarchi di dalla TV molto enormi, molto grandi. Però detto questo, secondo me il cinema invece, il film di Checco Zalone proprio fa da spartiacque. Di quello che c'era prima e quello che può venire dopo. Quindi, in che senso dici? I produttori in questo momento si stanno chiedendo che cinema fare. Questo fa bene. Certo. Perché certo. Al di là della sovvenzione dello Stato, al di là delle leggi, al di là delle battaglie... Inizierà un filone Zalone, insomma, gli zalonini ci saranno. Dobbiamo fare imitazioni, di costruire storie, di chiederci esattamente che cosa vuole il pubblico, qual è il pubblico che fa, parlare con gli esercenti, parlare con la gente, cioè io incontro l'esercente di Padova che aveva sicuramente un'esigenza diversa dell'esercente magari di Catania, allora devo capire esattamente che tipo di film fare e magari addirittura tornare a una distribuzione regionale. Cioè il problema cioè è ripensare al sistema cinema, ecco. Al circuito cinema, dobbiamo sostenere le sale, il mondo sta cambiando, tu ogni giorno lotto con la polizia postale, li ringrazio la polizia postale, ogni giorno si aprono 10 siti con il film di Checco Zalone e ogni giorno andiamo a spegnerlo. Certo, beh, certo, beh, d'altra parte, voglio dire, lì il problema è più grande. In Francia arrivano direttamente a casa e ti fanno delle multe pazzesche. In Italia perché questo non c'è? Questo, per questo si deve battere l'anica, per questo dobbiamo batterci ogni giorno. Però detto questo, io vi ringrazio. Vabbè, no, io ringrazio te per aver avuto questa intuizione profonda. Grazie. Grazie tante, ecco, grazie. Una cosa è certa, naturalmente, che la distanza tra chi fa e chi critica è una distanza abissale che viene da molto lontano. Sentite questo dialogo esilarante tra il critico teatrale Guido da Vico Bonino e il grande Carmelo Bene. Siamo nel 1988, per dire come è lontano spesso il mondo della critica dal mondo reale. Qui si sta parlando di Carmelo Bene come di uno scrittore di scena, si sta parlando di Carmelo Bene come un attore, ma mi pare che l'unica cosa di cui si possa parlare di Carmelo Bene è la sua vera professione, cioè l'antipatico. Come antipatico Carmelo Bene è assolutamente inarrivabile, cioè arriva ai livelli tipo Marco Pannella, per esempio. Tengo molto, molto, molto. Ma molto, questa, molto. Questa è la cosa di te che io amo di più, perché davvero tu lì hai una vera creatività. Sì. Ma come scrittore scenico sei di una modestia sconfortante, le tue partiture, i tuoi collage sono di una pacchianeria veramente giovanilistica, insomma si sente, non ti offende. Ma scusa, tu parli di, alludi al testo quando alludo parli. Alludo al testo. Ma il testo non conta nulla nella scrittura di scena. Se posso parlare, sì, mi consenti di parlare. Beh, forse, se non forse a Lecce si parla così, ma noi a Torino lasciamo parlare le persone che diamo. Io parlo senza accenti. Quella che tu chiami spazzatura, sei tu che la scrivi. Poi mi permetto di dire anche che come attore sei molto modesto. Hai la voce del Buce, quella che Gadda nel Basticciaccio chiamava la voce del Buce. Hai un fisico che non sai assolutamente portare, sei anche truccato con una frangetta da parrucchiere di Borgata e insomma... Un viso antico! Ah, un viso. Sì, non so, quanto non faccio dell'informazione, io faccio cultura! Quanto la tua faccia l'hai vista? Beh, uno scontro, devo dire, epico da altri tempi, ma su questo tema è ancora una cosa divertente, ma anche triste da ascoltare. Montanelli, sempre Montanelli dannata, che rincara la dose proprio parlando degli intellettuali italiani. Sentiamolo. Tutta l'intelligenza italiana ha una vecchia tradizione di servilità, come è logico, perché si è sviluppata in un paese analfabeta, certo. Per secoli e secoli analfabeta. Non avendo il lettore, doveva per forza procurarsi il protettore. Ecco, scriveva per il protettore. Durissima. Ecco, ma come mai i critici raramente riconoscono i talenti popolari? Abbiamo sentito Zalone, ma pensate a quel talento di Totò che non è stato riconosciuto come talento fino alla morte. Secchi. Perché i critici sono sempre lontani dai gusti del popolo. Io ogni tanto mi chiedo, ma vanno a fare la spesa, si occupano delle cose basilari di cui poi la gente discute. E guarda che Zalone, noi l'abbiamo visto, ho già intravisto nelle battute del trailer, è pop ed è anche contemporaneamente, passatemi la battuta, rock. La critica non è né pop né rock, cerca di fare la musica classica senza conoscerne però la partitura, che è ancora peggio. Io trovo incredibile questo divario tra la realtà e quello che si racconta. Ecco, io ricordo a tutti il numero verde 800 24 00 24, l'SMS 349 238 6666. Il tema sul quale stiamo discutendo, sul quale se volete potete intervenire, naturalmente leggete le recensioni dei critici, cioè siete d'accordo, vi ritrovate nelle parole dei critici quando avete poi verificato di persona al cinema o in televisione quello che vedete. Pietrangelo. I critici hanno poi un committente che è l'ideologia. Malgrado si sia già nel 2013, ancora l'ideologia ha un forte collante presso i critici e a quella fanno riferimento. Tant'è vero che, per esempio, si applaude tantissimo un comico come Crozza, che è un bravissimo comico, ma bravissimo nell'attualità. Ed è impensabile immaginare che tra 20 anni la gente riesca a ridere ancora delle sue battute, perché è impensabile immaginare come oggi, 20 anni dopo, ridiamo delle battute, delle costruzioni della grande comicità italiana, che non facevano mai un riferimento militante. Non era l'attualità per forza. Bastonatorio. La sua funzione, per esempio, lì a Ballarò, qual è? È quella del fare il processo maoista di rieducazione dell'ospite. questa ha una funzione immediata che magari fa ridere, perché c'è sempre questo istinto. Beh, molto bravo, bravissimo. Però lo fa bene. Bisogna mettersi, bene. Poi anche dal punto di vista del bastonato. Certo. A chi lo dici? Non ce l'hanno con te, ce l'hanno con la divisa. Però dentro la divisa c'è sempre qualcuno. Ma quello che vorrei dire è un problema proprio di linguaggio del comico, sì, della comicità. Perché noi riusciamo a ridere ancora vedendo comici. Totò è universale. Ma non solo Totò universale. Parlo di un caso. Anzi, sentiamo Totò. Signorina, veniamo noi con questa mia a dirvi, a dirvi una parola. Che? Uno, quanto? Che? Uno che? Che? Scusate se sono poche. Che? Scusate se sono poche, ma 700.000 lire, punto e virgola, noi ci fanno specie che quest'anno, una parola, quest'anno c'è stato una grande moria delle vacche. Una grande? Come voi ben sapete. Punto. Punto. Due punti. Ma sì, fai a vedere che abbondiamo. Abbondantis ad abbondandum. Ma abbastanza universale, effettivamente, mi pare che quello che stavi dicendo. E tra vent'anni la vedo dura per Crozza poter far ridere rispetto alle sue battute legate all'attualità. Crozza però non ha finito ancora, speriamo. Voglio dire, che non sa spendersi un Crozza per la storia. Il comico abbraccia l'universale. Arriverà. Io sono un fan di Crozza. Roberto D'Agostino, grande osservatore del costume italiano, direttore del sito Dagospia. Ecco, come mai critici con difficoltà riconoscono i grandi talenti popolari? Beh, hanno dei riflessi veramente ritardanti, aspettano che defunga il personaggio, ma questo dipende anche dal fatto che in Italia è una cultura, diciamo, di destra o liberal, una cultura che non sia all'epoca marxista, non è mai esistita, è stata sempre in mano alla sinistra. La sinistra non ha mai sopportato, per snobismo, per censo, non so che cosa dirti, non ho mai sopportato ciò che era che usciva dal suo popolare. Ambito. E quindi basta prendere la vita di Totò o di altri. Totò, per esempio, cosa è mancato nel caso di Totò? Un genio che è stato riconosciuto da morto. Esatto. Beh, era considerato volgarissimo, trash, come si dice oggi. All'epoca non c'era la parola trash, ma era volgare. Cioè, era uno che faceva dei sottintesi, era uno da... c'era il vice. Non era buono per il salotto, insomma. No, faceva proprio schifo a loro. Cioè, era considerato, capito, per le capre, per quelli che erano gli analfabeti. E nel caso di Zalone? Ma è sempre così, ma non è solamente... Ma non pensare che questo sia un caso Totò Zalone, ma tutto ciò che è popolare. Tu pensa solamente a tutta l'epoca dei Vanzina, del Cine Panettoni, capito? Considerati i pezzi del merda. Però non è tutto uguale, anche nel popolare non è tutto uguale, dai. Ma certo, come nell'alto non è tutto quanto ha lo stesso valore. Senti che cosa hanno detto i critici di Zalone. Fatalmente fedele a se stesso, ma anche perfetto trasformista come un Zelig levantino. Una sceneggiatura troppo banalotta, che si perde per strada, con il sapore dell'occasione perduta. Un passo indietro per Zalone, ma la gente non ci farà troppo caso. Per Sole a Catinelle, medici enunzianti hanno immaginato una struttura se non più complessa, certamente più ambiziosa. Ed è qui che il film scricchiola. Nessuno parla più di operai e di padroni, figurarsi di comunisti. E arriva Checco Zalone, che pur dichiarandosi lontano da ogni ideologia, costruisce tutto il suo nuovo film su quel che resta dell'Italia di un tempo dopo 20 anni di berlusconismo. La storia che hanno scelto di raccontare non è né un semplice canovaccio su cui appoggiare le invenzioni comiche e non permette nemmeno la creazione di un personaggio a tutto tondo. E il cafone che dice sempre la verità dei primi film diventa un cafone un po' schizofrenico. Zalone richiama molto la comicità del principe De Curtis, e come lui spesso è irresistibile, ma c'è bisogno di un po' più di spessore. Insomma, siamo sempre lì coi critici. È bello questo Midley, eh? Beh, non è bello, è anche un po' straziante. Considera veramente che c'era anche un'altra recensione che diceva, chiudeva così, caro Zalone, il cinema è un'altra cosa. E che cos'è quest'altra cosa? In base a quale parametro? Perché tutto quanto viene, tutto ciò che è popolare in qualche modo, e soprattutto che ha successo, viene considerato da buttare via? Loro andranno avanti, non so per quanto tempo, con questa idea di essere loro l'alto e gli altri il basso, no? Grazie, se tu vai Roberto. Alla missione popolare, è come prendere in giro la cultura, ma no, la cultura era anche divertimento, perché non si capisce per quale motivo loro devono fare la loro brava attore d'avorio e dire agli altri, capito, c'è un film che incassa 20 milioni in 4 giorni. Dovrebbero essere tutti felici, tutti felici. Invece che so, giornali come Repubblica e Corriere, quelli cosiddetti di massa, giù. Critiche, botte, controbotte, sono liberi di criticare, ma non possono fare a meno di non registrare un evento di questo genere. E poi si lamentano che i loro amati pagine non sono comprate all'edicola. Grazie, ma se vuoi dire Roberto. Stronzo ogni volta al vostro lettore, ma io perché mi devo spendere 1,20 € per comprarlo? Grazie Roberto, prego, grazie mille. Ciao. Ciao. Riccardo da Rimini, pronto? Buongiorno. Salve. Buongiorno, buongiorno. Dica. Io, guardi, io sono un appassionato di cinema, a me il cinema piace, vado al cinema e stacco il cervello per 2 ore. Bene. Questo fondamentalmente è la mia necessità. Cioè il cinema per lei è staccare il cervello? Sì, certamente, io mi rilasso. Allora, il discorso è questo. Io mi domando, la prima domanda è cosa servono i critici cinematografici? Ah, beh. Questo. Perché mi sembrano persone completamente scollegate dalla realtà, soprattutto dalla società. Attuale, vabbè, non tutti e non solo, insomma, adesso abbiamo fatto il processo ai critici, però insomma, no, per carità, però non c'è bisogno di fucilarli su pubblica piazza. No, a me piace tutto il cinema, sia quello che mi fa pensare, anche col cervello staccato, sia quello che mi fa ridere. Ora, che senso ha anche un film come questo, che veramente serve solo per staccare il cervello, fargli una critica così feroce, visto va che bene, nessuno forse si aspettava contenuti così profondi. Va bene, ok. Grazie, la ringrazio per la sua telefonata. Intanto, Pietrangelo. Pietrangelo, allora a che punto siamo? Siamo al punto che dell'arte comica ne abbiamo fatto giustamente sempre una virtù politica. Beh, certo. Ma per arrivare a questo è fondamentale toccare l'universale, cioè qualcosa che vada oltre, che arrivi, che attraversi i secoli. Abbiamo dimenticato forse che alle nostre spalle c'è Goldoni? Abbiamo dimenticato forse che alle nostre spalle c'è tutta una tradizione? Perfino Machiavelli si misurò con l'arte della commedia. Certo. Però sempre su un tema universale che fa ridere sempre nei tempi. E va bene, posso dire, sì, è inimmaginabile, no? E voglio essere crudele fino in fondo, ma secondo voi, se Totò avesse fatto una sua gag con alle spalle una prima pagina del Messaggero raccontando dei personaggi dell'epoca, oggi rideremmo? Ma no. Chissà, Totò forse ci farebbe ridere. E quindi questa è la tomba della comicità militante. Va bene, ok, questa è la massima. La tua massima, la massima di Pietrangelo. Mix 24. Questa generazione di giovani mi fa orrore. Mantenuti per anni da questo stato, appena scoprono di avere 2 neuroni, prendono e vanno a studiare, a lavorare in America, a Londra, fregandosene di chi li ha mantenuti. Beh, non hanno nessuna vocazione civile. Io da ragazza a lettere occupata grondavo vocazione civile. Io ho scritto 11 romanzi di impegno civile e il libro sulla storia ufficiale del partito. Io mi sporco le mani, io sperimento, provo, io non passo la vita a fare la snob. Io faccio i salti mortali per essere madre e donna, ma alla fine della giornata sento che sono stata utile. Stefa, l'hai voluto tu, eh? In ordine sparso. La tua vocazione civile ai tempi dell'università non se la ricorda nessuno. Molti invece ricordano personalmente un'altra tua vocazione che si esprimeva a quei tempi, ma si consumava nei bagni dell'università. La storia ufficiale del partito l'hai scritta perché per anni sei stata l'amante del capo del partito. I tuoi 11 romanzi pubblicati da una piccola casa editrice foraggiata dal partito, recensiti da piccoli giornali vicini al partito, sono romanzi rilevanti, lo dicono tutti. Lavori tutta la settimana in televisione, esci tutte le sere, pure il lunedì, quando non si manifestano neppure gli spacciatori di Popper. I tuoi figli stanno sempre senza di te, pure durante le vacanze lunghe che ti concedi. Poi hai, per la precisione, un maggiordomo, un cameriere, un un cuoco, un autista che accompagna i ragazzi a scuola, tre babysitter, insomma, come e quando si manifesta il tuo sacrificio? Avete riconosciuto, forse era Paolo Sorrentino nella grande bellezza. Mario, è una sintesi di quello che abbiamo detto fino adesso. È la Terrazza di Scola, rivista ai nostri giorni. È un film bellissimo, un ritratto grottesco e amaro della Roma potentona. Un tempo l'Espresso scrisse: capitale corrotta, nazione infetta. E beh, insomma, però, nei costumi ci siamo. Ecco, Luca da Brescia. Luca, buongiorno. Volevo dire, io ho visto il film, me lo sono goduto, secondo me è più profondo di quello che può apparire in prima istanza, probabilmente nel tempo rimarrà come un punto, come adesso stiamo riscoprendo alcuni film degli anni 70. Vi faccio soltanto un episodio, quando lui si scopre il viso nella stanza dei massoni, la sala non ha riso, abbiamo riso in pochi, perché pochi hanno capito che scoprirsi il viso e dire i nomi delle persone in quel contesto non si può fare, significava qualcosa di completamente sovvertivo. Certo, ma certo. Non era una gag comica immediata, no. Soltanto chi sapeva come funzionava la società ha riso e ha capito che li ha scoperti, e quindi dice c'è qualcosa che resta. Grazie. Le bolle. Olè. Allora, Bill de Blasio, sindaco di New York, primo sindaco democratico dopo 24 anni, italiano, ha stravinto, non c'erano dubbi, e parla così. Questa mattina ho ricordato mio nonno Giovanni, mia nonna Anna, e per me questo è un sogno americano. Giovanni, eccomi. Ma quanti PDL ci sono? Perché ieri hanno fatto un'altra riunione, si sono divisi su tutto, la strategia di Alfano resta quella di controllare Silvio, ma ci riuscirà? Non so. Mission Impossible. E quanti PD ci sono, Giovanni? I cuperliani contro i renziani contro i cuperliani. I cuperliani dicono vinciamo i congressi locali. I renziani rispondono è tutto falso. Dalemiani, bersaniani, veltroniani, pittegliani, civatiani. Oh, che famiglia. Berlinguer, ti voglio bene. Quello che mi preoccupa a me la Berlinguer. Recentemente mi pareva un po' lento. Berlinguer non è lento, ignorante. Berlinguer ci vuol bene. Anch'io ti voglio bene a Berlinguer. Ma il problema non è mio quello di fidanzarsi con Berlinguer, è quello di fare la rivoluzione. Ma tu hai delle bolle? Io ho una bolla. Oggi. Oh, e qual è? Vorrei leggere una cosa. L'amore, quando è perduto, resta per sempre. È una trappola dolorosa, ma vale la pena di caderci per vivere. Ecco. Sei tu, Pietrangelo, che scrivi queste cose nel Dolore pazzo dell'amore, tuo libro che esce su Bompiani proprio in questi giorni. Davvero hai avuto un'esperienza così? La consigli o la temi? Intanto questo è un colpo basso. Segnalo la faccia di Buttafuoco. Si poteva fare solo un colpo basso. Di quel che non si può dire si deve tacere. Vai avanti con le bolle. Va bene, gente di fiducia, i grillini assumono parenti e amici, avete visto, nelle istituzioni. Risposta sdegnata dei pentastellati: serviva gente di fiducia. Però ci sono arrivati pure loro. Anche i 5 Stelle hanno bisogno di persone di fiducia. Ecco, poi ci sono delle cose sulla stampa internazionale molto interessanti, e chi italiani sulla stampa anglosassone in particolare. Intanto c'è un'Italia che funziona, c'è un bel pezzo di Tony Barber stamattina sul Financial Times che dice che la crisi sta offuscando purtroppo delle grandi storie di successo italiane, soprattutto nel settore della moda. Si fa riferimento a Brunello Cucinelli, che è una case history, come certo. Che esiste, molto, avremo ospite presto. Molto bella, ma si fa riferimento ai successi avuti da Prada, da Ferragamo, dai grandi marchi del fashion design italiano. Ed è un peccato. Che sono ancora qualcosa, un settore che tira, accidenti, che tira molto nel mondo. Accidenti. Sì. L'altra notizia che diciamo compare sulle prime pagine dei giornali internazionali è ovviamente il divieto di entrare nel canale della Giudecca per le navi da crociera. Questo è molto importante perché voi sapete. Per i crociere socialisti sono soprattutto americani, spesso e volentieri. E su Wall Street Journal stamattina si discuteva. Ma ne discutono capendo il perché, no? Beh, immagino, non ci sono dubbi, spero. È una follia totale. Pietrangelo, i tuoi salamini? Ah, i salamini si annunciano sempre con le note di Ettore Petrolini. Ettore Petrolini, grande comico, cade a fagiolo con la puntata di oggi dedicata a Checco Zalone, anche perché i critici erano così cretini anche all'epoca che quando lui interpretava Nerone pensavano facesse satira politica. I critici a posteriori pensavano che fosse antifascista, quella, a parte il fatto che era una sciarpa Littorio. Poi in realtà lui fece il Nerone quando c'era tutta la retorica del peplum, quindi era un gioco universale, non del particolare bastonatorio. E voglio questa canzone, che è La Mazurka di Totò, per accompagnarmi a una riflessione su due importanti editoriali usciti oggi nei due più importanti quotidiani. Mi metto la giacca, aspetta, vai. Anche la cravatta. Sì. Quello di Barbara Spinelli su La Repubblica, che fa un endorsement ancora più sfacciato di quello che a suo tempo fece Paolo Mieli per Romano Prodi, fa un endorsement a favore dei 5 Stelle. In contrapposizione invece con il Eugenio fondatore. Scalfari, che è stato insolentito e aggredito da Beppe Grillo in persona. Io sto col fondatore. Dopodiché stiamo tutti col fondatore. Sì, certo, ci mancherebbe altro. Eugenio, dai. Ci mancherebbe altro. Dopotutto, poi perché questa musica? Perché proprio Totò? Perché la mazurka? Perché c'è quel bellissimo editoriale oggi sul Corriere della Sera a firma di Giovanni Sartori. Ah, è il prof. Che una vaga somiglianza al principe ce l'ha, che ha fatto due colonne per arrivare al sussurro e basta fondamentale che io sottoscrivo, e cioè? Quando lui dice sopprimere anche le regioni. Evviva. Sarebbe una meraviglia sopprimere le regioni. Non ce la fanno con le province, la sembra di capire. Soprattutto la mia, togliete l'autonomia alla Sicilia, scrocettatela. Scrocettatela, è meraviglioso. Enrico da Varese, prima della pubblicità. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Senta, io volevo dire che le critiche che abbiamo appena letto, sì, avete letto, secondo me sono vere. Bene, però, oh. No, sono vere perché loro si basano su come è fatto il film. Però io dico la verità, io il film di Zalone inizio a ridere dall'inizio alla fine. Quindi viva i critici e viva Zalone, mi par di capire, grazie. Sono le 9.45, sono le 9.45 e 21 secondi. È diventato Mieli, terzista. Mix 24. Sono le 9.47 e 38, il nostro numero lo ricordo, 800 24 00 24. Tra poco parliamo di televisione, se avete cose da dire telefonate oppure scrivete un sms al 349 238 6666. Professor Giorgio Simonelli al telefono, buongiorno professore. Buongiorno. Dove era ieri sera il canone? Ma guardi, le confesserò, ieri sera sono caduto in una provocazione. A differenza degli altri ospiti che passano sempre le loro serate in maniera, come dire, molto intellettuale, leggendo Proust, no? Come fa Buttafuoco, eh? Lo sconsiglio, dice. Io sono caduto proprio come un pesce. Perché è tempo perduto. Ho accettato la provocazione di Rocco Siffredi. Perché ieri sera è cominciato. Ah, professore, questa è forte. Che pensa Rocco? E Siffredi ha detto in conferenza stampa, cioè, professore, il canone era da Rocco Siffredi? No, ecco, non è che stiamo esagerando. Questo. Rocco ha detto: questo in fondo è un programma di servizio pubblico perché serve a migliorare i rapporti di coppia, sa, il famoso problema della caduta del desiderio, le coppie consolidate, le coppie monogame che ad un certo punto insomma smettono, e allora bisogna riaccendere il desiderio, ci pensa Rocco. E io ho accettato questa provocazione dicendo: ma chissà che ci sia qualche elemento di intelligente trasgressione in questo programma. E invece ho buttato via la mia serata, diciamo la mia seconda serata, perché il programma è tremendamente deludente. Vabbè, allora se è deludente è forse inutile parlarne. Però insomma, visto che qui tutti si vantano di fare servizio pubblico, bisogna anche un po' spiegare di cosa vuol dire fare servizio pubblico. Vabbè, lì non c'era il servizio pubblico, professore, ieri sera. Ma da qualche altra parte l'ha trovato? Ma sì, poi appunto deluso da questo, devo dire che un paio di cose interessanti l'ho trovato. Una su Sky Arte, c'era un speciale dedicato al nuovo disco che Fiorella Mannoia ha registrato per Lucio Dalla, con contributi di vari altri cantanti, Alessandra Moroso, Ron, e incredibilmente, a differenza di quanto appunto accade con Rocco Siffredi, si facevano discorsi molto intelligenti. Mezz'ora di televisione in studio con Fiorella Mannoia che dialogava con i suoi ospiti, e Ron, Alessandra Moroso parlavano di musica in maniera molto colta, ma appunto su un tema anche pop, perché in fondo Lucio Dalla, certo, è un prodotto naturalmente pop, a dimostrazione appunto di quello che dicevate prima, insomma, non sempre ciò che che i critici sono sempre soltanto snob, ogni tanto anche i critici guardano cose che l'altro servizio pubblico dov'è che ha trovato la motivazione io sono d'accordo con Buttafuoco quando dice che insomma, c'è troppa satira politica e troppa satira dell'attualità. Però devo dire che ieri sera Crozza ha avuto molto coraggio. Ha avuto coraggio perché in questo momento così di grande tensione, fare questa imitazione della Cancellieri, così com'è bravo lui a farlo in maniera tecnicamente ineccepibile, che forse è anche il limite di Crozza, perché questa sua ineccepibilità, questa sua perfezione nell'imitazione a volte lo rende anche un pochettino stucchevole. Però ieri sera devo dire... Un grande Crozza, insomma, ieri sera, secondo lei? Anche se c'è questo limite, che dico, però insomma, in quel momento in cui il clima era caldissimo, posso avere il coraggio di fare proprio la Cancellieri che parla con Ligresti, insomma, mi è sembrato davvero un atto coraggioso. Prof, e coraggioso il servizio pubblico. C'è Mario Secchi che vuole interloquire. Sì, voglio dire che il Crozza non era da vedere là, a Ballarò, ma da un'altra parte, su La 7. A Radio 24 Minoli gli ha chiesto: Napolitano ha troppo potere o copre un vuoto della politica? E lui ha risposto: la Costituzione italiana prevede per il Presidente della Repubblica poteri a geometria variabile. Quando la politica è forte, il suo perimetro è corto. Quando la politica è debole, il suo perimetro è largo. A parte che poi, alla fine dell'intervista, lui diceva lei quanto prende Minoli? Lei quanto prende Minoli? Lei quanto prende Minoli? Lo sai quanto fece lei? Quanto prende Minoli? faceva la satira del faccia a faccia che abbiamo fatto con Renato Brunetta. Ecco, tu dove l'hai visto, Carlo, ieri sera? No, io ieri sera niente TV. Niente TV, mamma libri, mia, non mi va mai bene uno. No, è perché sarei stato costretto a guardare Ballarò. Per me me lo racconta Buttafuoco il giorno dopo. Prima di dare la parola, che sarà un insulto a Buttafuoco, sentiamo Fabrizio d'Alessandria. Ah, buongiorno Minoli. Buongiorno. Dunque io noto che circa uno o due fiction all'anno, e a me piacciono molto le cose ambientate nella storia, però non tutte sono fatte bene. Attualmente mi piace Squadra Antimafia su Canale 5, che è moderno, però c'ha degli attori bravissimi, è una storia intelligente. E poi anche Rossella sulla Rai, che rinizia la seconda serie, però la fanno sempre il lunedì sera insieme a Squadra Antimafia, quindi mi tocca vedere. C'è una concorrenza, sarà Rai e Mediaset, forse non lo sa, ma bisognerebbe farsi concorrenza. Grazie, viva la fiction allora. Tu Pietrangelo cosa hai visto ieri sera? Dai. Dov'era il canone? Altro che Macchina del Fango, questa è coprolalia col ventilatore, una vergogna. Dove sto servizio? Da Rocco Siffredi era. Ma quale Rocco Siffredi? Ancora più osceno, perché è pura pornografia quella fatta a Ballarò, un servizio dove incollavano l'opinione della gente, no? Quante G dobbiamo mettere? Tre davanti. Sul caso Cancellieri, un montaggio che era veramente, non servizio pubblico, servizio gogna fai da te. Bene, vede professore, tante teste, tante idee. Sì, sì. Ma vedo però non era Crozza però, Crozza era grande. Sempre, sei sempre mentre gli ospiti li guardano cose importanti. Insomma, Rocco Siffredi lo lasciano solo a me. Sì, no? Beh, certo, professore. Ma lei forse sarebbe meglio le partner di Rocco Siffredi, professore. Prof, lei ha fatto una scelta hard. Bene. Bene, grazie professore. Dopo il giornale radio, vi ricordo, ritorna Mix 24 con la storia curata come sempre da Marina Milone. Oggi vi raccontiamo la vita di un attore straordinario, di Ugo Tognazzi.